non ho visto ognuno, si balle e si canta, da chi li sa mostrare occasione. Oh, bon. Tutte smale, oh, bon, bon, bon. E ne è male, oh, bon, bon, bon. Ma non voglio stare solo a me, che vita è l'altro, e non li scrivi, che vita mia, e non li scrivi, che vita mia, e non li scrivi. Tutto e non li schisavamma che l'azzutto. Ferra, si su che lupi in terra, la via non serra, tu puro la vera, poi la vera in terra, tu puro la serra, poi si su che lupi in terra, la via non serra, tu puro la vera, tu puro la serra, poi la vera in terra, tu Malavera, nella, radovora, nella, radasam, lalala, lalala.